Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Exalge, ben ritrovati a una nuova puntata di Casa da Paes Radio Edition. Io sono Nina Terruzzi e vi do il benvenuto un altro venerdì, ormai il nono dall'inizio di questa serie di trasmissioni dedicate al jazz contemporaneo e a quello che adesso può ancora collegarsi. Ricordo come sempre di dare un occhio ai social di Exalge, uno spazio a Milano che ora è accessibile tutti i giorni e che quindi propone attività, anche se ovviamente vincolate da tutte le varie restrizioni dovute al contenimento della pandemia, ma insomma è comunque una realtà fisica vera che si può toccare con mano. Finalmente, dopo diversi mesi di chiusura e di solo fruizione aerea attraverso la radio. Se volete entrare in contatto con me, invece potete scrivere a casadapaes@gmail.com e anche Casa da Paes è sui social, su Facebook e Instagram. Questa trasmissione consta in 60 minuti dedicati soprattutto all'ascolto e quindi alla musica molto più che alle parole. Il brano da cui partiamo si intitola Finally the Man Cried, è tratto dal secondo disco del gruppo denominato Shabaka and the Ancestors, ovvero un ensemble guidato da Shabaka Hutchings, che è un sassofonista inglese, insieme a un gruppo di musicisti sudafricani di Johannesburg. Il disco si intitola We Are Sent by History e parla di un'apocalisse causata dai nostri errori perpetrati, dalla quale uscire solamente facendo i conti con il nostro passato, riconciliandoci con esso e riguardando un po' quella che è stata la nostra storia. Un invito che fa decisamente al caso di questo anno. Ce lo godiamo subito. ciao. Yes, they are calling to Tabo. He's a Maqueta. He's a Maqueta. Yes, they are calling to Tabo. Back and the Ancestors e poi Quebra Cabeça, disco della band brasiliana Bixiga 70, uscito nel 2018. Il brano che abbiamo ascoltato era Portal. E adesso entriamo un po' nel vivo della trasmissione con una selezione di pezzi particolarmente lunghi, diciamo, e che quindi sposano un po' quella che per me è l'intenzione primaria della trasmissione, ovvero far ascoltare la musica. Sono lunghi nel senso non commercialmente radiofonico del termine, cosa di cui ci interessa relativamente poco. E il primo disco che ascoltiamo si chiama BS10, ovvero il tentetto di Beppe Scardino live in Pisa. Il primo brano del disco si chiama Agosto 14 ed è il mio preferito. Thank you. BS10 Live in Pisa o BS10 Live in Pisa, tentetto del sassofonista livornese Beppe Scardino. Agosto 14 era il nome del brano, mentre proseguiamo con Up There, un pezzo tratto da Transylvanian Folk Songs di Lucian Bann, John Sermon e Matt Maneri, una collezione di pezzi di Béla Bartók riarrangiati da questo trio. Lucian Bann è un pianista rumeno, poi trasferitosi a New York, che qua appunto vede il lavoro di Béla Bartók, che era ungherese ma che ha viaggiato molto in Romania facendo un lavoro di studio della musica rumena molto approfondito. Questa è una registrazione dal vivo fatta alla Baroque Hall of the Timișoara Museum of Art in Romania, registrazione del 7 novembre 2018, ma il disco è del 2020. Thank you. Continuiamo questa selezione di brani appositamente selezionati in quanto non brevi, con un altro pezzo secondo me bellissimo del già qui ascoltato Mary Halvorson's Code Girl, gruppo guidato dalla chitarrista Mary Halvorson. Il loro ultimo disco si chiama Artlessly Falling e questo è Last Minute Smears. Oh, Rimaniamo negli Stati Uniti, dove quasi 20 anni dopo il loro primo disco insieme si sono rincontrati l'anno scorso i Chicago Underground Quartet, Josh Johnson, Rob Mazurek, Jeff Parker e Chet Taylor. Questo disco si chiama Good Days e il brano che ascoltiamo è Strange Wing. Thank you. Casa da Pais Radio Edition puntata 9 finisce qui, io vi ringrazio molto per l'ascolto, vi do appuntamento se volete venerdì prossimo sempre alle 19 per un'altra ora insieme, vi lascio con For Your Crimes, una registrazione ancora dal vivo del pianista Jamie Saft in solo dal suo disco The Golden Scale. E vi ricordo che Exalge esiste ed è fisicamente accessibile a Milano, controllate online che cosa vi propone e che invece se volete parlare con me scrivete a casadapais@gmail.com. Buona serata, buona continuazione sulle frequenze di Radio Exalge e buon weekend.